24 mattino di Alessandro Milan. Le 7 e 20 minuti, ci siamo anche oggi, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 col nostro Peter Bescapè in regia, il nostro alpino di fiducia. E su Twitter @24mattino oppure @talinomilan. Eccoci lì. Allora, oggi avremo ospite Giuliano Ferrara. Tra un'ora parleremo del ritorno di Silvio Berlusconi. Torna, non torna. E poi parleremo del tema lanciato qualche giorno fa anche dal senatore Marino a questi microfoni e che sui giornali è diventata una polemica per qualcuno. Ma come, in tempo di tagli tagliamo tutto, tagliamo i posti letto negli ospedali e non tagliamo le spese per gli F-35, i cacciabombardieri? Come mai? Ne parleremo alle 8.30. Ora tuffiamoci nella lettura dei giornali in edicola. In questo giovedì 12 luglio, due sono i titoli che prendono le prime pagine dei giornali: Monti e le dichiarazioni di ieri e la vicenda del ritorno probabile di Silvio Berlusconi, candidato a premier nel centrodestra, come anticipava ieri il Corriere della Sera. Allora, il Sole 24 Ore, Monti per l'Italia, percorso di guerra. Questa è l'apertura. Così il Corriere: Monti, tensione con la CGIL e Repubblica. Monti, no alla concertazione. La Stampa, percorso di guerra per l'Italia. Il Messaggero: Monti contro la concertazione. Anche per Avvenire: un percorso di guerra, Monti avverte il paese. E lo stesso titolo sull'Unità: Monti, percorso di guerra. Il Manifesto invece mette una foto simbolo che proviene dalla Spagna, dove ci sono stati degli scontri dopo che il governo Rajoy ha tagliato le tredicesime agli statali. E c'è questa foto di una ragazza col volto insanguinato a seguito degli scontri. La grande guerra, questo è il titolo di apertura del Manifesto. E poi eccolo qua, Berlusconi. Libero fa un disegno di Berlusconi che torna sullo sfondo Monti e la Merkel. Cucù, rieccolo. Questo è il titolo di Libero. Il Giornale invece: perché torna Berlusconi? Mentre lì il Fatto Quotidiano: la comica finale, torna Berlusconi. C'è anche in prima pagina del Fatto una frase di Marx: quando la storia si ripete diventa farsa. Allora, io però voglio partire da che cosa? Tornano, o meglio, non si sono mai sopite ancora, le polemiche dopo la sentenza del G8, no? L'irruzione alla scuola Diaz. Vi segnalo almeno due articoli interessanti. Il primo è Carlo Bonini su Repubblica, pagina 18. G8, i poliziotti condannati vadano in cella. Questo è l'ordine di carcerazione che è stato notificato ai poliziotti condannati per i fatti della Diaz. Ordine di 16 delle 17 pene detentive. C'è stato un errore formale, materiale, per il condannato invece Canterini, per il quale ci vorrà un'udienza camerale per la correzione, ma comunque insomma una questione burocratica. Domani invece, in una cabala, scrive Bonini, che vuole due sentenze definitive in una settimana legate al G8, ci sarà la sentenza definitiva in Cassazione di fronte a una diversa sezione, ma uno stesso magistrato dell'accusa, Pietro Gaeta, contro i saccheggi del G8, perché a Genova ci furono anche, ricordate, le devastazioni dei cosiddetti Black Bloc. E domani ci sarà dunque questa sentenza definitiva. Imputate sono 10 persone, 8 uomini e 2 donne, che rischiano fino a 10 anni di carcere. Ballano in tutto infatti 100 anni di reclusione, comminati già in Corte d'Appello di Genova dopo le condanne di primo grado furono aumentate. Sarà un dentro o fuori dal carcere. Tra l'altro Repubblica racconta anche le storie. Per esempio c'è nell'articolo di Massimo Calandri Alberto Funaro, che non ha detto niente a nessuno del processo di domani, fa l'infermiere in un ospedale romano e dice: se mi assolvono magari alla direzione sanitaria non vengono a saperlo e ritorno alla mia vita normale, altrimenti sono 10 anni di reclusione. O Carlo Arculeo, che a Palermo gestisce un agriturismo in una riserva naturale, che dice: sono pessimista, pagheremo per tutti ma almeno basta, sono 11 anni che vivo con la paura di vedere la mia vita distrutta. E lui, se verrà condannato domani, lo attendono 8 anni di prigione. Oppure c'è anche una coppia, Ines Morasca e Dario Ursino, che poco dopo i fatti di Genova hanno avuto una bimba. Nel frattempo la mamma è stata condannata a 6 anni e 6 mesi, il papà a 7, abita a Messina e sono pronti a lasciare la bimba alla nonna nel caso fossero condannati. Insomma, domani questa udienza definitiva in Cassazione per le devastazioni e i saccheggi di Genova. Intanto però, appunto, racconta Carlo Bonini, c'è anche la richiesta di carcerazione per i poliziotti che però hanno fatto già richiesta tramite gli avvocati dell'affidamento ai servizi sociali, con gli avvocati dei poliziotti che dicono non vediamo le ragioni per cui l'affidamento dovrebbe essere negato, visto che ne beneficiano condannati per reati gravissimi, ma visto come sono andate sin qui le cose siamo psicologicamente attrezzati anche al carcere. A proposito di G8, oggi sul Corriere della Sera trovate a pagina 20 una lettera aperta, è una lettera sicuramente insolita, perché è scritta dai poliziotti del servizio centrale operativo, quel servizio centrale, quelli che prendono i Provenzano, i Riina, tanto per intenderci, e a cui capo erano Gratteri, Caldarozzi, due dei condannati della scuola Diaz, per l'appunto, e vincendo la ritrosia, vincendo il loro proverbiale riserbo, scrivono questa lettera. Una lettera aperta che sicuramente susciterà polemiche. Cari capi Francesco Gratteri e Gilberto Caldarozzi, sentimenti di stima che le vostre figure professionali riscuotono ci inducono a disobbedire per questa e l'unica volta al vostro ultimo ordine del silenzio istituzionale. Lo facciamo per dirvi semplicemente e pubblicamente grazie. In questi anni di lavoro siete stati un costante punto di riferimento. Dire che siete uomini delle istituzioni è dire poco. Lo siete stati fino alla fine, con la compostezza, la signorilità che vi ha contraddistinto. E continuerete ad esserlo nel silenzio dell'uomo comune ricco di dignità. Noi possiamo affermare ciò perché ce lo consente il quotidiano e silenzioso lavoro svolto nel tempo, quel lavoro che ha determinato il Presidente della Repubblica nel maggio 2008 a riconoscere al nostro ufficio la medaglia d'oro al merito civile. Tutti abbiamo il dovere di rispettare la giustizia che ci onoriamo di servire e voi in ciò siete stati ancora una volta un esempio. Ma per noi si è verificato quello che tutti gli operatori del diritto hanno studiato e sanno possa accadere. La verità processuale non corrisponde, per quanto vi riguarda, alla verità reale. A voi, nel nostro ufficio, sarà sempre riservato un posto in prima fila. Grazie per l'onore che ci avete dato, quello di essere stati vostri collaboratori. Beh, insomma, una lettera firmata i poliziotti del servizio centrale operativo, l'ho un po' riassunta nei concetti principali, è un po' più lunga. Una lettera che fa discutere sicuramente, perché è un grazie sentito e poi è questa frase, no? La verità processuale non corrisponde a quello che è successo nella verità vera, reale. È un modo per prendere anche le distanze da questa sentenza, che è una sentenza definitiva di condanna nei confronti, tra gli altri, anche appunto di Francesco Gratteri e Gilberto Caldarozzi. Sul G8 vi segnalo anche un terzo articolo, un'intervista a Di Pietro sul Manifesto, a pagina 7. E Di Pietro dice, beh, le scuse le devo chiedere in tanti, ma anche i movimenti chiedano scusa per i fatti commessi dai manifestanti. A Genova sono successe tante cose, le uniche non giustificano le altre. Troppo facile dire che ora solo la polizia deve chiedere scusa. Capisco che voi siete del Manifesto, ma non facciamo un santo dei manifestanti. Così Di Pietro. Alla domanda di Eleonora Martini, ma senta, la polizia non dovrebbe essere superiore a tutto? Anche in carcere ci sono criminali, ma non vuol dire che vadano torturati. Non sto dicendo questo, solo che ho tutto il rispetto che ci vuole per Caino, ma se permettete penso anche ad Abele. Sui fatti di Genova bisogna capire che ogni evento ha la sua storia. Insomma, un Di Pietro che dice la polizia si scusi e si è scusata, ma anche i movimenti per quello che hanno combinato i manifestanti. Vabbè, questo per quel che riguarda il G8, invece voglio darvi un'altra notizia veloce, cioè che Renato Farina, ve lo ricordate, l'ex agente Betulla che già aveva patteggiato una condanna per essere agente del SISDE, poi è stato eletto ed è in Parlamento, l'onorevole Renato Farina ha un'altra condanna, è stato condannato per falso, fa sapere Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, pagina 19, perché è andato a trovare Lele Mora, prerogativa sua da parlamentare, in carcere, ma ha portato un amico di Lele Mora, facendolo passare invece per un consulente, un collaboratore del proprio ufficio con rapporto stabile e continuativo. In realtà l'accusa, dice, era un amico di Lele Mora, un 22enne che voleva incontrare Lele Mora in carcere, e dunque è un falso. Questa l'accusa, e una sentenza incredibile, 2 anni e 8 mesi. Tanto che Vittorio Feltri, nel commentarla sul giornale, dice: questo codice è da strappare. Farina è un cattolicone che ha le tasche piene di corone del Rosario Benedette e di immaginette della Madonna, ha deciso di andare a trovare Lele Mora. È fatto così. E cosa ha portato? Ha portato un ragazzo di 20 anni, un amico di Lele. Lecito o no, lo ignoro, ma so che un deputato ha diritto di portare appresso un collaboratore. Ma insomma, scrive Vittorio Feltri in prima pagina del giornale, 2 anni e 8 mesi per questa vicenda. Che cosa ha fatto? Furto con scasso, rapina manarmata, bancarotta fraudolenta? No, signore. L'onorevole Farina se la sarebbe cavata con una pena inferiore per questi reati. In pratica non ha fatto nulla di male, non ha recato danno ad alcuno, non c'è una parte lesa, non c'è una vittima. Ha cercato di agevolare solo sul piano dei buoni sentimenti una persona, anzi due, in grosse difficoltà psicologiche, e per questo è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Anche libero è molto duro. Porta un amico in cella da mora. Farina condannato a 2 anni, accusato di falso in atto pubblico, racconta Francesco Specchia, per essere andato in carcere in veste di deputato con un 20enne dell'entourage del talent scout, spacciandolo per collaboratore. Effettivamente la sentenza pare un po' esagerata, quasi 3 anni di carcere per una cosa del genere. In ogni caso è parlamentare, quindi non li farà. Eccoci qua, allora, la giornata politica ieri è stata sicuramente dominata da Mario Monti da una parte e dalla notizia del ritorno possibile di Silvio Berlusconi, candidato del centrodestra, che ha sicuramente spiazzato e che oggi sui giornali prende molti commenti. Allora, Mario Monti cosa ha detto? Beh, ha detto: per l'Italia ci vuole un percorso di guerra. Questa frase è quasi il titolo di apertura di molti, quasi tutti i quotidiani. Un percorso di guerra durissimo contro i diffusi pregiudizi, contro l'eredità del debito pubblico, contro le sottovalutazioni da parte di noi stessi, contro gli effetti delle decisioni prese in passato, i vizi strutturali della nostra economia. E già questo ce n'era per prendere le prime pagine dei giornali. Poi Mario Monti ha fatto un affondo che, come racconta Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, pagina 3, è passato con il suo solito tono monocorde, sobrio, ma un affondo durissimo in realtà, nei confronti della concertazione, tanto che Repubblica titola in prima pagina così: Monti, no, la concertazione, e il Corriere: tensione con la CGIL. Lina Palmerini scrive: le sferzate di Monti normalmente arrivano che quasi non ci si accorge, saranno i toni sempre pacati, tratti del viso che non mutano, sta di fatto che il contenuto delle parole è sempre spiazzante. Ieri l'effetto si è ripetuto quando il premier, con la solita calma, ha sferrato un j'accuse durissimo contro la concertazione, a cui ha attribuito gran parte dei mali del paese. Quando nacque nei primi anni 90 a Palazzo Chigi c'era un altro tecnico, Ciampi, e il dialogo sociale servì a inaugurare la politica dei redditi, a raffreddare salari e inflazioni, ma per Monti si è poi arrivati a una deriva. Ed eccola allora la frase: esercizi profondi di concertazione in passato hanno generato i mali contro cui noi combattiamo e a causa dei quali i nostri figli e nipoti non trovano facilmente lavoro. Insomma, la concertazione alla base del fatto che i nostri figli non trovano lavoro. E tanto che la replica della CGIL con Susanna Camusso è arrivata a stretto giro di posta: il premier non sa di cosa parla. Ancora leggo dal Sole 24 Ore, pagina 3. E poi ecco l'accusa molto dura, cioè la frase molto acida di Susanna Camusso: prendere lezioni di democrazia da chi è cooptato e non si è misurato col voto è un po' imbarazzante per il futuro democratico del paese. Insomma, su questo si esercitano i commentatori. Roberto Mania, per esempio, a pagina 3 del quotidiano Repubblica, scrive che in realtà parafrasando la frase utilizzata dal segretario CISL Bonanni, Mario Monti parlava a suocera perché intendesse nuora, e la nuora in questo caso sarebbe il PD, tanto che i sospetti di Bersani e Camusso sono proprio questi: vuole separare il Partito Democratico dalla CGIL, con Bersani che si dice, ed è descritto in questo articolo, irritato. Il dialogo o la concertazione non è affatto un cedimento alla non decisione, la democrazia non si impoverisce se ci si confronta, anzi al contrario. Questa è la posizione di Bersani. Sta di fatto che, insomma, questa dichiarazione ha creato molto scompiglio anche nei rapporti istituzionali tra il Palazzo Chigi e le parti sociali, in particolare la CGIL. Poi l'altra notizia è appunto quella, l'altra notizia politica, è il fatto che Silvio Berlusconi, ieri annunciato il Corriere della Sera, ha sciolto i dubbi e torna, scende in campo. La battuta migliore sicuramente l'ha fatta Roberto Maroni. Scende in campo dove? A San Siro? Questo ha detto il nuovo leader della Lega. Ma in realtà ci sono molti commenti. Per la verità, ieri Mario Monti ha detto una frase anche su Berlusconi, molto dura nella sua analisi. Insomma, ieri Mario Monti si è tolto qualche sassolino, parlando e ricordando il vertice a Cannes di novembre, dove il Fatto Quotidiano racconta: abbiamo rischiato di finire come la Grecia. Scrive Stefano Feltri a pagina 5. Tutte le testimonianze, questa è la frase di Monti, mi dicono che il mio predecessore, presidente Silvio Berlusconi, è stato sottoposto a una pressione, immagino, sgradevolissima e credo per lui e per il paese prossima all'umiliazione. Insomma, Berlusconi è stato quasi, e il governo è stato quasi umiliato, ha detto ieri Mario Monti al vertice di Cannes. E questo il Fatto Quotidiano lo mette a pagina 5, come dire, ricordate questa frase quando leggerete e leggete che Silvio Berlusconi sta per riscendere in campo. Sta di fatto che tutti i commentatori sembra tornare un attimo indietro di qualche mese, no? Quando, vi ricordate, il giornalismo italiano per anni è stato, per la verità, tutto diviso su pro Berlusconi contro Berlusconi, e già i commentatori, Se vedete, i giornali sono pieni di questi ritorni, no? La notizia poi è questa: ma davvero tornerà Berlusconi? Non si sa, intanto se ne parla, e se ne parla già tantissimo sui giornali. E per esempio Stefano Folli fa il commento proprio improntato sul Sole 24 Ore a questa cifra, lo scoop del Corriere della Sera firmato Luciano Fontana. Non significa che Berlusconi sarà di nuovo e con certezza candidato premier nel 2013 alla testa del PDL, o come si chiamerà. Significa che invece oggi, metà di luglio 2012, questo è il messaggio che l'uomo forte del centrodestra vuol far arrivare. A chi? A un pezzo di quell'opinione pubblica che un tempo lo votava e adesso è dispersa. Insomma, Stefano Folli dice una sorta di gioco, una sorta di gioco d'azzardo, anche, come dire, i più ritengono, scrive ancora Folli, giustamente, che si tratti di una mossa tattica per riaggregare le forze. Del resto alle elezioni c'è tempo e tutto può cambiare 100 volte da qui ad allora. In realtà l'annuncio assomiglia a una mossa estrema, un po' disperata, di un uomo che non si rassegna a perdere l'enorme influenza esercitata per quasi 2 decenni. E infatti anche la stessa analisi è di Ugo Magri a pagina 7 della Stampa. Il titolo è L'ultimo azzardo per evitare la catastrofe. Scrive Magri: la voglia di tornare al centro del ring è incontenibile, né qualcuno ha la forza di sbarrargli la via. Sembra dunque scontato che alle prossime elezioni Berlusconi ci sarà. Aveva detto e ripetuto il contrario? Si cambia idea nella vita. E Silvio l'aggiorna di continuo, per cui magari potrebbe addirittura accadere che tra una settimana o un mese annunci: ci ho ripensato, non mi candido più. È un fatto che ieri a una festa di compleanno Berlusconi abbia detto: tutti gli imprenditori desiderano il mio ritorno. Ma un altro fatto è che l'altra sera così si sia rivolto ai suoi discepoli: sono disponibile a farmi carico del partito alle prossime elezioni, mi batterò per recuperare gli incerti, Angelino sarà al mio fianco per parlare ai giovani, insieme faremo un ticket fortissimo. E insomma, Berlusconi sì o no? Alfano fa un'intervista al Corriere della Sera. Rilascio un'intervista a Francesco Verderami, la trovate a pagina 3. E molti hanno visto in Alfano una persona che ieri ha dovuto gioco forza appoggiare Silvio Berlusconi dopo questo scoop. Secondo qualcuno l'ha preso direttamente leggendo il Corriere della Sera. Secondo altri, retroscena, ha stappato una bottiglia di champagne, come dire, non ne potevo più. Secondo altri ancora, invece, è rimasto delusissimo dalla decisione di Berlusconi di annunciare la sua candidatura. Il dato di fatto è che pubblicamente in questa intervista è il candidato più forte. Io alla guida del partito, Angelino Alfano, dice: va tutto bene così. Berlusconi non è mai uscito di scena, dice a Francesco Verderami. Berlusconi non ha bisogno di ticket, ha vinto senza accompagnatori, ma se volesse farsi affiancare da qualcuno gli consiglierei una protagonista femminile del nostro partito, come ci ha detto ieri la Santanchè, insomma. Un ticket con una donna, ne ho in mente più di una da suggerirgli, dice Alfano. E poi Verderami dice: beh, ma lei è stato messo in difficoltà, la battuta sulla mancanza di quid che lei non avrebbe, detta da Berlusconi. E Alfano: a tutti gli uomini di questa terra manca un quid, la perfezione appartiene agli dèi. Senta, ma nel partito avete valutato i pro e i contro della candidatura di Berlusconi? I contro? E quali sarebbero i contro? Dice e risponde Alfano. Beh, forse l'idea di fare un'operazione nostalgica, come se fosse Yeltsin, no? Il cavaliere. Berlusconi, risponde Alfano, è ammesso di diritto alla sfida successiva come detentore del titolo per aver vinto le ultime elezioni. Insomma, un Alfano che dice: Berlusconi è il candidato nostro più forte. Berlusconi è come un ragazzo, vuole correre per la quarta volta, un pupone di 75 anni. Che avrebbe ogni convenienza personale a far valere in via indiretta la sua influenza di straricco, di figura ormai storica della vita pubblica italiana e internazionale, di idolo per nemici e amici, decide di riprovarci, a quanto pare. E conclude con un bentornato a un vecchio amico il suo editoriale Giuliano Ferrara, oggi sul Foglio in prima pagina, oggi sarà anche nostro ospite alle 8:20, sta di fatto che invece è graffiante, iena sulla Stampa, Riccardo Barenghi a pagina 3, addirittura, e nel PD c'è chi pensa addirittura di ricandidare Prodi. Effettivamente Prodi Berlusconi, proprio siamo proiettati verso il 2050. Allora, ieri è stata anche una giornata in cui in Europa bisogna dare uno sguardo soprattutto a quello che succede in Spagna. In Spagna c'è stata una vera e propria stangata, scure, come si dice in questi casi, del governo Rajoy. La situazione è difficile, abbiamo appreso ieri che arriveranno i primi 30 miliardi, ma potrebbero arrivare fino a 100 miliardi per ricapitalizzare le banche spagnole. E ieri il governo ha agito per recuperare i conti pubblici con una manovra molto impopolare, che infatti ha dato subito vita a scontri di piazza, con feriti, fermati. C'è la foto già simbolo, ripeto, è questa di questa ragazza col volto completamente coperto di sangue, per esempio, l'ho trovata in prima pagina del Manifesto. La scelta più impopolare è quella di bloccare, congelare le tredicesime degli statali. Questo succede in Spagna, una stangata da 65 miliardi, questo è il titolo di pagina 9 del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. In una capitale spagnola sconvolta dai pesanti disordini provocati dalla marcia negra dei minatori di carbone che protestavano per i tagli agli aiuti che minacciano il settore, il premier spagnolo Rajoy ha deciso di fare quello che gli chiedevano da tempo i suoi collaboratori e i partner europei: rimangiarsi le promesse elettorali, fare un'operazione verità sui conti pubblici con un discorso churchilliano in Parlamento di sangue, sudore e lacrime, basato sull'idea che la Spagna non può scegliere, non possiamo scegliere se fare o no i sacrifici, non abbiamo questa libertà. Gli spagnoli sono molto orgogliosi, sono gli eredi degli Hidalgos e questa missione di impotenza deve essere costata molto a Rajoy da pochi mesi al potere. I mercati invece hanno cinicamente brindato positivamente perché guardavano alle immagini dei deputati del Partito Popolare che in Parlamento applaudivano l'annuncio delle nuove misure, frutto delle indicazioni arrivate dall'Unione Europea. E dunque la dura ricetta per recuperare competitività perduta è la svalutazione interna, cioè l'autoriduzione dei salari e il taglio delle spese, risparmi per 65 miliardi di euro che si aggiungono ai circa 45 miliardi di tagli già decisi. Congelate anche le tredicesime, taglia i sussidi di disoccupazione, E questa è la dura ricetta spagnola che ha provocato scontri a Madrid. Anche il Corriere della Sera titola così: via la tredicesima, scontri a Madrid. Tra l'altro, a proposito di speculazione o cose varie, attenzione a quello che si legge in questi articoli, due sul giornale Il Corriere, la stessa notizia: la paura del crack fa cancellare le vacanze a banchieri e politici, così il giornale a pagina 4, ma anche Il Corriere a pagina 9, gli speculatori saltano le vacanze, niente ferie ad agosto per lo spread. Da sempre, scrive per esempio Fabrizio Massaro sul Corriere, agosto è il mese più delicato, approfittando della distrazione generale, delle ferie che svuotano gli uffici, della calura che rallenta i riflessi, sono state compiute le più grandi operazioni, le scalate bancarie, i blitz dei rider. Lo scorso anno non è stato da meno. E allora ecco la battuta, sorridendo, ma una battuta mica tanto, di Federico Ghizzoni, numero uno di Unicredit: io ad agosto resto in Italia, non si sa mai, perché i segnali non consentono di abbassare la guardia, lo spread oscilla sotto la soglia dei 500 punti, stemperatosi solo ieri a quota 4,54 sul Bund tedesco. E dunque attenzione, lo scorso anno proprio iniziò a fine luglio l'attacco al debito italiano che portò il differenziale con il Bund a 400, ed ecco allora che i bancari dicono non si va in vacanza perché temiamo lo spread. Vi voglio segnalare invece due belle pagine sul Fatto Quotidiano, una vicenda che ieri ha preso molte pagine sui giornali, questo 54 migranti che sono morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Italia, uno solo si è salvato. Trovate sul Fatto Quotidiano due pagine, pagina 6 e 7, dimenticati in mare. C'è anche un intervento di Andrea Segre, che è un regista che ha scritto e realizzato un bel documentario film insieme a un altro bravo giornalista, Stefano Liberti. E il titolo del documentario è Mare chiuso, la fame, la sete e i morti, così è finita l'umanità. Andrea Segre, questo regista, mette in una ipotesi di sceneggiatura i dialoghi dalla deriva di un barcone, la crisi dell'umanità, c'è la crisi, non possono certo occuparsi di noi, ma che dici, da Witt, siamo in mezzo al mare, senza più motore, senza acqua, donne incinte, bambini, senza nulla da mangiare, tu ti metti a parlare della crisi, ma che dici, la crisi, lo sai, no, non ci sono più soldi in Europa, non c'è più lavoro, non hai letto su internet, ma vuoi smetterla? Non vedi che ci sta succedendo? E secondo te perché ci sta succedendo? Perché ci siamo affidati a uno stronzo che non sapeva leggere il GPS, guidare una barca. Ora eccoci qui, da più di 100 ore nel nulla, circondati da acqua che non possiamo bere, con la morte in faccia. No, signore, non è colpa né di quello stronzo né nostra. Che alternativa avevamo noi? Stare in Libia, farci deportare, picchiare da vecchi e nuovi gendarmi? Tornare nelle carceri di Asmara o Addis Abeba? O tornare a farci un giretto nel Sahara con quel mercante del Sinai? Non metterti a fare il maestro di geopolitica ora. No, nessuna geopolitica, è la mia e la tua vita. Abbiamo cercato di salvarla, così ora siamo fregati. E sai perché? Perché quelli che una volta salvavano le vite in mare, oggi hanno l'ordine di non farlo più, di non accorgersene e di andare oltre. Inizia così questo dialogo, che in realtà è un dialogo ricostruito, un racconto fatto da AK, le iniziali di un cittadino etiope oggi rifugiato in Europa, che, scrive Andrea Segre, ho incontrato assieme a Stefano Liberti durante la produzione del documentario Mare Chiuso, ed è un'ipotesi di sceneggiatura di quello che potrebbe essere successo al largo dell'Italia, in acque internazionali probabilmente, quando questo barcone con 54 migranti è affondato con tutti morti. Abbiamo con noi tra pochi secondi il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara, perché ce l'avevamo, è caduta la linea, ma lo stiamo recuperando per parlare allora del ritorno di Silvio Berlusconi, definito oggi da Giuliano Ferrara un pupone di 75 anni che ritorna in campo, si butta in campo per la quarta volta. Giuliano Ferrara, eccoci qua, direttore, buongiorno. Buongiorno. Ma com'è un pupone? Un pupone di 75 anni. Ma perché Berlusconi è così, insomma, no? C'è questo elemento un po' genuinamente infantile, al alcuni l'hanno persino messo sotto psichiatria i suoi nemici, dicendo che aveva delle sindromi narcisistiche da bambino. Ma Berlusconi ha questo fuoco nella pancia, no? Gli americani lo chiamano fire in the belly, fuoco nella pancia, cioè insomma, la vita per lui è fare delle cose, non astenersi dal fare. Sì. Quindi quest'idea di rientrare, insomma, era nelle cose. Naturalmente bisogna vedere su che piattaforma politica, quale animo soprattutto, la piattaforma politica sa già di lingua di legno, con quale animo? Se lo fa con un animo ricostruttivo, cioè per permettere le sue idee, a volte anche così scandalose, però al servizio di un paese in emergenza, in una logica di responsabilità nazionale, beh, se lo facesse in questo modo qui spiazzerebbe tutti i suoi avversari di sempre e potrebbe essere un uomo di tempra anche piuttosto eccezionale, visto che personalità Berlusconi ne ha. Ma questo sì, però ha sentito le critiche, cos'è il nuovo che avanza? Cioè qualcuno dice dobbiamo riaspettarci le corna, il cucù, questi lati di Berlusconi fanciulleschi che anche lei dice sono imprescindibili, mi sembra di capire. Dobbiamo tornare a quello, i titoli di Repubblica, le campagne. Beh, insomma, questo dipende non soltanto da Berlusconi, dipende anche da come viene trattata la materia. C'è una parte del paese, forse oggi minoritaria rispetto alle grandi maggioranze del passato, sempre maggioranze diciamo da legge elettorale, maggioranze costruite con la politica, secondo la legge, non maggioranze del 51%, ma c'è una parte del paese che ancora ama Berlusconi, che pensa che sia stato un sogno tradito, una cosa diciamo svanita nell'accanimento con cui è stato combattuto e naturalmente anche in una serie di errori molto gravi che lui ha commesso. Ma questo paese c'è, Berlusconi sente di poterlo rappresentare diciamo in esclusiva, perché la classe dirigente che si è formata in questi anni è un po' sfilacciata, non ha trovato un centro, un baricentro si dice in fisica. Sì. No, e quindi tutto ruota sempre intorno a lui, la destra italiana è nata personale, non c'è niente da fare, sono cose alle quali bisogna rassegnarsi. Tutti gli ipocriti di sinistra che dicono vorremmo una destra moderna, una destra che si ricolleghi magari alla destra storica, fatta di una classe dirigente, di grandi, notabili, farmacisti, ma insomma quando le elezioni si facevano per censo si poteva immaginare una destra così. Oggi la destra è Silvio Berlusconi, è soprattutto sì. Silvio Berlusconi. In Italia è così, ma anche fuori d'Italia le personalità contano. Senta, ma chi è più contento secondo lei se torna Berlusconi? È il più scontento? Chi è? Alfano, che adesso oggi sul Corriere della Sera dice no, gli starò a fianco, fa bene, è giusto, non è mai andato via. In realtà a me sembra un po' disperato Alfano. Ma no, Alfano è un suo figlioccio, intelligente abbastanza e giovane abbastanza da capire che una prospettiva di questo genere, se Berlusconi decide di impostarla, è anche per lui inevitabile. No, non credo proprio che Alfano abbia problemi di questa natura, di questo genere. No, saranno scontenti, diciamo, tutti coloro. In questo senso potrei essere scontento anch'io, cioè se Berlusconi si mette a far girare le rotative per stampare la lira, se si mette a fare il masaniello, come ho scritto stamattina nel foglio, allora rischia di ripercorrere il già visto, di fare una cosa di scarsa fantasia politica, poco utile secondo me a lui e al paese. Se invece fa una cosa seria, responsabile, cioè se mette diciamo ciò che ha, teniamo sempre conto che è Berlusconi che ha varato il governo Monti, senza di lui non si sarebbe mai fatto, sì, cioè certo anche la Merkel, certo Napolitano, certo le condizioni in cui si trovava il paese, però insomma questo è un punto fondamentale, è lui che ci ha dato questa possibilità. Allora in che senso andandosene, dice? Andandosene neanche tanto, perché lì insomma la maggioranza era periclitante, prima o poi si sarebbe sfasciata, ma sebbene abbia anticipato i tempi con saggezza, ma soprattutto non chiedendo le elezioni, che erano un suo diritto. E però Monti ieri ha detto chiaramente, forse se n'è andato anche perché è stato quasi umiliato a Cannes, dove abbiamo quasi rischiato di fare la fine della Grecia. Ma ho guardato bene il filmato, Monti sta sempre attento a non replicare, duplicare o triplicare le umiliazioni del paese, è un uomo intelligente in questo, cioè chi si aspettava da Monti, per esempio Alfari e molti altri, chi si aspettava da Monti diciamo una logica vendicativa verso il predecessore è stato deluso. Monti ragiona in una logica molto istituzionale, è un tecnocrate che non fa diciamo bassa cucina politica e quindi ripete sempre che fa delle cose che erano state impostate anche prima di lui, che avevano un senso anche nei governi precedenti, cerca di ricomprendere il passato, non di distruggerlo in effigie come se fosse il modello di tutti i mali. Poi l'altra cosa di Berlusconi è non solo avere varato il governo Monti, ma c'ha una carta che non sottovaluterei. Lo spread è a 4,50, è a 4,60, non è a 200. E quindi cioè, può dire non era colpa mia, no? Può dire, ragazzi, qui c'è una crisi che ci riguarda tutti, non la potete scaricare su di me dicendo che era colpa mia o io stesso dicendo che era colpa del solo Tremonti. Cioè, non è che, insomma, l'Italia che cresce, l'Italia competitiva, l'Italia rigorosa che convince i mercati, insomma, o la costruisce una grande maggioranza di riscatto e di unità nazionale o non la costruisce nessuno. Però lei vuole un Berlusconi non che si metta a fare una campagna contro l'euro, torniamo alla lira, no, il Masaniello, no, un Berlusconi che vuole riprendere in mano quella, non so, quella sfida liberale che forse lui stesso ha tradito per vent'anni. Sì, dare una inquadratura, diciamo, liberale secondo le sue idee, i suoi umori, il suo temperamento politico, ciò che Berlusconi politicamente ha rappresentato, a una fase nuova, sapendo che quella vecchia non tornerà più e non deve tornare soprattutto, perché se ricominciamo con berlusconiani, anzi berlusconiani, a darceli di santa ragione. No, questo non è sopportabile. Io emigro in Zimbabwe, Ma quindi non è più un cazzone adesso. Ma la destra cazzona è la destra che non capisce, secondo me, questo punto, cioè che vuole rinverdire l'antico fasto della scazzottata, così anche con degli elementi di autenticità, insomma, perché poi è interessante, la democrazia è conflitto, non è mica sempre solo intesa, anzi, però insomma rinverdire quei fasti lì mi sembra una cosa autocontraddittoria che il paese stesso non capisce, anche se il paese è arrabbiato perché l'IMU è alta, poi la paga massicciamente perché sa che l'Italia è un paese in cui il debito pubblico ha patrimonialmente arricchito non solo i soliti noti, ma l'insieme della comunità, con delle sacche di emarginazione e di miseria che fanno vergogna, ma l'insieme della comunità è stata avvantaggiata da uno spirito spendaccione e adesso bisogna pagare. Pagare i debiti è molto semplice. Rimane per concludere, rimarrà un rap per Berlusconi a questo punto dovrà fare. Sarà questo. Io replico il mio tienimi da conto Monti, nel senso che Monti è fuori dalla mischia, non si candiderà come era sicuro? Sicuramente. Sicuro non c'è mai niente naturalmente, però insomma stando alle cose, alle dichiarazioni e alla logica delle cose non dovrebbe entrare in una mischia all'italiana. Che qualcuno dice che non sia neanche sicuro che Berlusconi si candidi, che forse ha fatto una mossa in avanti, cioè secondo lei è sicuramente così, si ricandida? Insomma adesso sicuramente non lo so, ripeto quello che ho detto già anche per Monti che non si candida, lo ripeto anche per Berlusconi che si candida, di sicuro non c'è nulla. Adesso bisogna vedere per esempio come sarà la legge elettorale, perché certo. Dipende anche da quello. Berlusconi è un uomo che fa i suoi calcoli, però c'ha questo fuoco nella pancia per cui il suo ritorno non si può assolutamente escludere. Va bene, la ringrazio, buona giornata al Grazie direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. E sui giornali, ieri anche Antonio Socci l'avevano letto su Libero, un giornalista molto improntato allo spirito cattolico, per esempio, ha lanciato questo messaggio. Ma perché, visto che si tagliano gli ospedali o si tagliano i posti letto negli ospedali, si taglia nella sanità, perché invece dobbiamo mantenere le spese militari, le spese per esempio per i famosi, diventati anche al centro di una polemica, F-35? Io prima di salutare gli ospiti, così ce lo aveva detto anche il senatore Ignazio Marino del Partito Democratico qualche giorno fa, sentiamo cosa ci aveva detto. Perché non guardiamo tutte le aree strategiche? Perché in questi giorni nessuno ha parlato di interrompere gli investimenti in cacciabombardieri? Sono 15 miliardi di euro, ma lei pensa davvero che chi ci sta ascoltando è più preoccupato di avere il cacciabombardiere a decollo verticale più sofisticato della Terra o un pronto soccorso che funziona? Allora, un pronto soccorso o un F-35? Capisco che messa così c'è anche una dose di populismo, di demagogia, ma siamo qui a discuterne. 800 24 00 24, diteci la vostra, ne vogliamo discutere con tra l'altro un senatore oggi collega di Ignazio Marino, perché è del Partito Democratico, però è un generale di lungo corso, Mauro Del Vecchio, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a lei. Saluto anche un altro generale, Fabio Mini, buongiorno generale Mini, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Entrambi avete avuto una carriera lunghissima anche di comando all'interno dell'esercito. Allora, senatore Del Vecchio, vorrei partire da lei perché il suo collega anche di partito l'ha posta così, e insomma, dobbiamo tagliare la sanità, i posti letto eccetera, e perché dobbiamo mantenere i cacciabombardieri, a che ci servono? Tagliamo lì. Naturalmente qui siamo tutti quanti parlando di momenti estremamente difficili per il nostro paese, quindi come dire, questi tagli, queste riduzioni ai bilanci sono stati effettuati nei confronti di tutti i dicasteri. Per quanto riguarda più specificatamente il problema dei cacciabombardieri, naturalmente ad una persona che affronti il problema così senza conoscere tutti i risvolti, evidentemente le affermazioni del senatore Marino possono sembrare assolutamente corrispondenti alla realtà. Ecco, io vorrei precisare alcuni aspetti che credo che siano importanti. Ci spieghi. Gli F-35, questi cacciabombardieri, sono degli aerei tattici che verranno immessi in linea per sostituire gli analoghi aerei che ormai sono prossimi alla fine della loro vita tecnica, e non avverranno come dire, acquisiti nel giro di un anno, ma nel giro di 15 anni, sì, dal 2016 fino al 2020. Perché questo dovrà avvenire? Dovrà avvenire per una semplicissima ragione. Al 2030 forse, in 15 anni. Chiedo scusa, sì. Che è 2030, sì. Abbia pazienza. Per una semplicissima ragione, perché praticamente gli aerei attualmente disponibili, Tornado, gli AMX e gli aerei a decollo verticale, termineranno la loro vita tecnica entro quella data. Cioè sono vecchi e quindi vanno sostituiti. Quindi non potranno più essere impiegati. Se vogliamo mantenere una funzione difesa, ancorché naturalmente adeguata a quella che è il livello dell'Italia, dobbiamo cambiare i nostri aerei. Ecco perché è stata fatta questa scelta. D'altro canto, le spese naturalmente che verranno sostenute saranno spalmate in questi 15 anni. Certo, credo si trattino di 12 miliardi per l'acquisto di 90 F-35. Ce n'erano di più in origine, credo 100 e rotti. 100 per uno, ecco, vorrei mettere in risalto. Quanti erano? 100? Erano 131. 131. Se ne acquisteranno invece 90. Che si passerà dai 260 aerei attualmente in linea ai 90, che è 90 F-35 nel 2030. Quindi lei dice già c'è una riduzione. C'è una riduzione sostanziale, che è giusto che ci sia. Vediamo se su questo il generale Fabio Mini, so che lei è stato invece più critico sul... adesso non voglio entrare su una disquisizione tecnica, non mi appartiene, credo che interessi anche meno gli ascoltatori, cioè sull'utilità tecnica di un mezzo rispetto all'altro. Però se vuole dirci qualcosa riguardo anche a questo, generale Mini, ma io le vorrei fare la domanda più che altro sul fatto, sono d'accordo con le obiezioni del generale Del Vecchio che dice, ma insomma già dovevano essere 260 aerei e arriveremo a 90, dovevano essere 131 di acquisti di F-35 e saranno solo 90, quindi già un taglio c'è stato, ma ci vuole un comparto difesa adeguato per uno Stato come l'Italia. Lei che ne pensa? Ma io penso che invece di guardare a quello che si deve tagliare, bisognerebbe guardare a quello che bisogna costruire. Cioè, se alla fine di tutta questa manovra e alla fine di tutti questi 14, 15 o anche 20 anni avremo lo stesso strumento che abbiamo adesso, con condizioni che sono geostrategiche più o meno le stesse, in cui una minaccia immanente e imminente non esiste, io ho l'impressione che non facciamo bene a nessuno. Noi dovremmo approfittare in tutta l'Italia, in tutti i comparti, di questa crisi, che non è una nottata da passare, come diceva De Filippo, questa qui è una cosa strutturale, e quindi bisognerebbe approfittare per fare delle riforme forti, strutturali. Cioè, quando noi avremo invece di 200 e passa aerei, che dice il generale Del Vecchio, ne avremo 90, io voglio ancora una risposta. Cioè, per fare che cosa? 90 aerei per fare l'attacco tattico, e in più i drone che adesso l'aeronautica vuole per fare gli attacchi anche con velivoli senza pilota, appartengono innanzitutto alla mentalità di una potenza che è globale, e noi non lo siamo, e poi appartiene a un passato che io vedo nostalgico, nel senso che c'è molta gente che pensa ancora di stare alla guerra fredda. Quindi lei dice sarà anche una riduzione, ma non serve alla situazione geostrategica mondiale. Cioè, cosa serve? Dobbiamo fare una guerra che non c'è? Questo ci sta dicendo. Esatto, e soprattutto non serve alle forze armate per ristrutturarsi. Cioè, noi quando tagliamo da 183.000 uomini lo portiamo a 150.000 e tagliamo quelli che vanno in missione. Cioè, noi siamo veramente e andiamo a comprare degli aerei che sono bellissimi, sarà quello che è. Io ho molti dubbi che siano aerei tattici, va bene, perché i cacciabombardieri sono multiruolo, possono fare tutto, ma non è che vanno lì soltanto per aiutare il nostro fante, fanno tutt'altro, e questo mi permetto di... Cioè, che senso che fanno? Bombardano, cioè cosa vuol dire? Cosa vuol dire fanno tutt'altro? Bombardano, fanno difesa aerea, fanno ma contro quale minaccia? E questa Esatto, interessante questo punto di vista. Allora, tra l'altro, lei appunto ha posto l'accento su un tema: si tagliano le missioni, perché io ho visto che per le missioni di pace sono stati stanziati 430 milioni di euro in meno. Allora, perché tagliare, per esempio, sulle missioni, cioè su soldati che effettivamente sono sul territorio? Poi si può contestare, c'è chi dice dovrebbero ritirarsi, non dovrebbero esserci, però si taglia su spese vive che si vivono oggi e che servono oggi, e magari non si taglia, o il generale Del Vecchio si dice si è tagliato, ma si potrebbe tagliare di più su aerei che dobbiamo acquistare nel futuro, nei prossimi 15 anni, e il generale Mini dice che chissà poi servono per contro quale minaccia. Vorrei sentire Diego da Bergamo che ci ha chiamato. Diego, buongiorno. Sì, buongiorno Milan. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Sì, io volevo dire rapidamente una cosa. Secondo me è una polemica del tutto sterile. Cioè, se l'Italia ha scelto di far parte, come tanti altri paesi moderni del mondo occidentale, di un'alleanza atlantica come la NATO, deve necessariamente fare degli investimenti nel settore militare che la portano a livello di parco strumentazioni, automezzi, velivoli... All'altezza degli altri paesi, se no cambia strategia anche a livello internazionale. Detto questo, io sono quel poco informato che riesco ad essere coi giornali e le televisioni, so che l'ammiraglio Di Paola, che è un tecnico, che è l'attuale ministro della difesa, sta effettuando una, chiamiamola, mini spending review nel settore della difesa. Sì, c'è già stato, ci sono stati dei tagli e delle revisioni in un esercito fatto di molti generali, anche se mi si passa questo termine, e meno soldati, per cui è stato anche nostro ospite all'epoca in cui annunciò questa revisione degli organici dei militari, che verranno ridotti nei prossimi anni. Quindi lei dice una polemica sterile. Generale Del Vecchio, è sterile, cioè una polemica anche secondo lei sbagliata? Secondo me, anche per me è una polemica sterile, sottolineo il discorso del lungo periodo di acquisizione di questo sistema d'arma, ma vorrei rispondere anche al generale collega Mini, con cui ho operato tantissime volte. Per quanto riguarda i compiti delle forze armate, sono ancora, potrei così facilmente dire, sono quelli previsti dalla Costituzione, e quindi sono molto variegati, ma scendendo nel particolare io non posso non sottolineare come ci abbiamo avuto recentemente un'esperienza in Libia in cui pur in una fase di stabilizzazione i nostri aerei sono stati impiegati, e lo abbiamo visto anche in Afghanistan. D'altro canto il generale Milì, come me, conosce perfettamente, per aver operato all'estero al comando di missioni internazionali, che per poter garantire l'assolvimento dei compiti bisogna avere uno strumento equilibrato, uno strumento che abbia certamente la componente umana, che è la più importante evidentemente, ma che sia sorretta da capacità addestrative, dalla formazione del personale e dai sistemi d'arma che consentano a questo strumento di essere integrabile sul terreno con le altre. Però chiede il generale Mini a cosa servono, cioè servono, sono adeguati a fare che? A fare la guerra che noi in realtà non facciamo? No, nessuno vuol fare la guerra, come tutti quanti sappiamo, l'Italia ha ripudiato la guerra, ma naturalmente si addestra a disposizione ad intervenire sulla base delle determinazioni delle organizzazioni internazionali in tutte le occasioni in cui è necessario garantire la sicurezza nel mondo. Ecco, quindi naturalmente questo potrebbe comportare anche l'impiego di questi aerei in alcune città. Sentiamo Giacomo dalla provincia di Lucca, che ci ha chiamato anche lui. 800 24 00 24. Giacomo, buongiorno. Sì, buongiorno. Per me le forze armate, quando vedo queste caserme, quando li vedo anche nei campi di periferia, per me mi sembra di vedere gli extraterrestri, perché francamente non so che cosa fanno, cosa ci stanno a fare. Vabbè Giacomo, adesso insomma lei contesta, qua abbiamo due generali che la pensano diversamente sul tema F-35, però lei ci sta dicendo a che serve l'esercito in Italia, questo la posso tradurre così. Vabbè, la prendiamo come una provocazione, esce un po' dal tema F-35, sentiamo Gianni da Roma, poi magari se voglio le faccio replicare da un paio di generali. Gianni da Roma, buongiorno, torniamo buongiorno. Più sul tema, tema F-35. Più l'ascolto con estrema simpatia, più scopro che questo paese non ha classe dirigente adeguata. Vado a fregarmi. Però aspetti, no, ma si spieghi tra un attimo, la recuperiamo con la linea perché non si sente niente col cellulare. Prima generale Mini, non so se vuol replicare a Giacomo che dice per me sono marziani addirittura gli uomini in divisa quando li vedo, però al di là di questo e al di là della polemica di Giacomo, secondo lei dobbiamo anche mantenere questi F-35 per dei contratti che, per carità, quando vengono firmati devono essere rispettati e quindi dai quali non possiamo più recedere, ci sono anche degli interessi sotto? Ma secondo me sì, secondo me anzi questa è la ragione fondamentale, cioè di chi? Non si possono fare dei passi indietro perché si sono fatti dei passi troppo lunghi e degli sbalzi in avanti 10-15 anni fa, e non è un caso che quegli stessi che adesso non vogliono toccare niente sono gli stessi che hanno firmato i contratti. Quindi Per carità, non le voglio fargli un nome o un cognome, ma ci aiuta a capire. Cioè cosa c'entra i governi del passato, società che hanno, cioè ci dica secondo lei quali sono gli interessi. I governi del passato, noi abbiamo dei tecnici che sono al loro posto da oltre 40 anni e continuano a essere lì, quindi sono sempre gli stessi. Se lei va a vedere chi è che ha firmato, chi è che ha promosso, chi è che ha spinto per gli aerei, per le portaerei e per tutti i cosi, è sempre l'ammiraglio Di Paola, il quale adesso è ministro, ma prima è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, è stato fino a poco fa chairman della NATO. Quindi quando il signore lì di Bergamo dice che noi siamo in un'alleanza, bene, allora nessuno meglio di Di Paola sa che cosa vuol dire un'alleanza, e non vuol dire quello che viene scritto sull'alleanza, vuol dire che tutti i paesi devono partecipare in maniera equa e contribuire alla sicurezza collettiva. Questo non significa avere 28 eserciti tutti diversi uno dall'altro, che magari possono essere anche integrati. Io ho avuto 37 eserciti alle dipendenze, 37 sono capi di 37 eserciti. Dove questo? In Kosovo? Dove questo? In Kosovo, nella NATO? Esatto, ma infatti quello che viene è che se vogliamo veramente un futuro per le forze armate dobbiamo pensare a una integrazione che non sia la sommatoria di tutte le debolezze, di tutte le fisime che abbiamo in tutti questi 28 paesi, ma che sia veramente uno sforzo collettivo di stare insieme. D'altra parte l'Europa, e questo l'ha detto anche il Presidente della Repubblica, dovrebbe essere il nostro faro, cioè il nostro obiettivo, anche se lontano, anche se ogni volta sembra svanire. Quindi quando si dice che noi apparteniamo a un'alleanza e quindi dobbiamo stare al passo con i primi, perché non è solo stare al passo con gli altri, stare con i primi, si dice qualcosa che è teorico, perché in pratica i primi, primo, non vogliono fare la guerra, secondo, spendono meno. La Germania, noi stessi, quando dobbiamo andare a fare delle operazioni, stiamo a discutere dei mesi se fare, non fare, chi non fare, non fare. Quindi se non c'è, come dice Del Vecchio, la voglia di fare la guerra, allora bisogna andare a trovarsi la missione che serve effettivamente e adeguare lo strumento a quello che serve. E allora qui sì che andiamo a prendere tecnologia, andiamo a prendere professionalità e prendiamo, ma nella misura in cui anche gli altri paesi partecipano a questo. Essere al passo con i primi non significa svenarsi per fare tutto al posto dei primi. Se i tedeschi non vanno in Libia, significa che c'è un problema alla base. No, ma questa è l'accusa che fa lei, che è anche un problema politico, se vuole, perché poi qui entrano in campo anche le scelte dei governi di partecipare o no a quelle che sono missioni internazionali. Vorrei sentire Giovanni da Roma. Buongiorno, Giovanni. Buongiorno a lei. Dica. Senta, guardi, io sono sempre stato favorevole a avere forze efficienti, quindi non parlo affatto di marziani né altro. Penso che al momento giusto le forze armate sono una cosa seria e devono essere. Ma certo. Comunque, no, certo. Gli inglesi hanno rinunciato al loro programma F-135, hanno pagato la penale da pagare, 35. E hanno risparmiato i soldi, probabilmente hanno destinati alle Olimpiadi, che sono la cosa più urgente e più immediata. Non lo so questo. Comunque io sono favorevole ad avere le forze che occorrono quando occorrono. Sono assolutamente favorevole a togliere di mezzo quando non servono. In questo momento non vedo proprio l'obiettivo strategico. Però c'è da dire che appunto generale Del Vecchio ci ha spiegato che in realtà l'acquisto era previsto per 131, ce ne saranno solo 90. Però è chiaro, questo per esempio è una posizione non accettata dal generale Mini, cioè dire sono comunque troppe, ci stiamo svenando. Il tema è molto caldo, ce la faccio ancora un ascoltatore, poi devo chiudere. Denis dalla provincia di Bergamo, buongiorno Denis. Buongiorno a lei e ai ospiti. Dica, sia allora, sintetico per favore. Cose su questo tema. Innanzitutto non mi ricordo quale dei generali aveva detto che l'Italia ripudia la guerra. Sì, generale Del Vecchio, la Costituzione lo dice peraltro. Okay. Quindi. Ok, mi sembra che lo dica solo la Costituzione però, perché in effetti secondo me non è così, le chiamano missioni di pace. Ma sono, modo di vedere non si chiamano missioni di pace, ma si chiamano in un altro modo. Va bene. E poi un'altra cosa, sì. Mi ha anticipato l'ascoltatore di prima parlando degli inglesi, avevano rinunciato ai, vabbè, loro l'hanno fatto per le Olimpiadi, secondo me magari bisognerebbe rinunciare. Allora guardi Denis, però visto che ho 10 secondi, se no mi sfumano, se l'ha anticipato l'ascoltatore di prima teniamo buono quello. Ringrazio il generale Fabio Mini e il generale senatore del PD Mauro Del Vecchio. Tra poco tra l'altro ci sarà in GR24 la voce di Di Pietro, che è stato dato una bufala, ricoverato in ospedale, ischemia, invece il GR l'ha sentito, sta bene, e tra pochissimo sentirete la sua voce, sta a Roma, è tutto a posto. Ci fermiamo qui, grazie a tutti, a domattina alle 7:20.